Io sono un uomo di medicina. Chi si aspetta che io salvi le vite, che lenisca la sofferenza e che ami la gente? Per cui non avrei altra scelta che uccidere quel figlio di puttana. Sì, lo ucciderei. Solo tempo perso, solo fiato sprecato, solo rabbia e frustrazione che ho ingoiato. Solo come un solo viaggiatore, solo in paranoiato, sono solo annoiato, mente catto rabbuiato. Solo un colpo nella canna che mi sparo, solo un tossico Giancarlo con il fiato troppo amaro. Solo un altro santo in paradiso da stuprare, solo il male che perseguo, il mio ideale più brutale ed immortale. Resto solo, ma circondato dagli amici, e sono solo intrappolato nei tuoi occhi verdi e grigi. È solo musica d'altronde, vivo d'autolesionismo e ti rabisco per portarti in posti lugubri lontani da Cristo. Solo un gioco preso troppo seriamente, solo lacrime dal niente. Sono solo e sarò solo sempre. Solo il vento può spazzare le mie insicurezze. A tempo perso creo lamenti per ricevere carezze. Solo demoni interiori che mi mangiano l'essenza. Solo un goccio di tequila in trasparenza. Ho troppa consapevolezza per morire senza almeno provarci. Leghiamoci intrecciandoci per resettarci. E tu dammi un istante per equilibrare il piano, per spiegarti il mio comportamento vano da villano. È come lanciare perle di ossidiana nera, sti maiali, una pistola nella bocca, lasci i miei spaziali. Solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, sotto questo cielo terzo, resto solo col mio tempo avverso. Detesti ogni pretesto, se ti dicessi quanto penso, quanto ogni volta ho messo e guarda cosa ottengo, solo l'ennesimo tassello, solo tempo perso, se non colmo i vuoti almeno li conservo nel punto in cui convergo e non so per quanto reggo, ergo è da una vita che mi chiedo cosa aspetto e resto ostaggio del mare in cui m'amareggio, giusto il tempo di un nistagmo per vedere tutto spento, lascia il vento, sprassi di occasioni, brutti presentimenti sulle vostre intenzioni, in bilico sto schivo, sfido il buio come Dimo, ma cazzo sembro un mimo mentre cieco ti cerco a tentoni. Chi semina raccoglie, com'è che raccolgo solo rogne, invece che abbia visto spesso sparge menzogne, ciò che c'è di buono lo porto su uno bocca. Il resto lo fa svanire il vento, lui fa sempre il suo dovere. Certo, risulta strano, ho messo i guanti, ho fatto piano, ma è la prova che una piovra vuol diventare Leviatano. Ho perso tempo, ho perso giorni, ho perso mesi, ho perso anche la voglia di portarmi appresso pesi. Ho perso chi si perde al minimo scalzo, e fatti un balzo giù dal piedistallo, avverti nello sbalzo. Mi scanso, non sto con chi fa il morto fra le vittime. La tua grandezza è misurabile, ma in brisole. Solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, questo è solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, solo tempo perso, sotto questo cielo terzo, resto solo col mio tempo perso.